proposito della nostra superstar Giuseppe. Mette una carica incredibile. Come no, grande voce, pezzo, proprio veramente grintosa. Lei ha una bella, bella voce, non mi so piace. Se ricordi anche il video di questo pezzo. Sì. Dove lei insomma balla con altre due lei belle ragazze. Lei è scatenatissima. Come? È stato imitato sto video, insomma una forma fisica perfetta. E abbiamo anche una notizia. Abbiamo una, sì, una bella notizia sulla nostra Beyoncé. Perché a poco più di un anno dalla nascita della piccola Blue Ivy, avuta dal marito Jay-Z nel gennaio del 2012. Ah, non lo sapevo. Mamma Bio... Come non lo sapevo? Non lo sapevo. Mannaggia, adesso lo sai, ecco. Mamma Beyoncé ha perso ben 30 kg perché ahimè durante la gravidanza si è un po' leggermente ingrassata. Lei dice: non sono una persona magra per natura, però che devo fare? Devo lavorare molto per mantenere il mio corpo in forma. Quindi adesso è ritornata in forma, merito quindi di allenamenti regolari, massaggi mirati e anche ad una dieta principalmente vegana. Quindi buone abitudini che in poco tempo le hanno fatto ritrovare il peso forma. Ho preso 57 libbre, circa 25 kg, dice la star, durante la gravidanza. Non ha avuto molto tempo per perdere peso perché avevo in programma degli show 3 mesi dopo il parto. Quindi figurati. È stato uno sbaglio, non lo farò più. Ha continuato: non siamo tutti uguali, la cosa importante è cercare di stare in salute e prenderci cura di noi stessi, ma anche essere felici per tutte quelle cose che ci rendono speciali. Direi. E poi inoltre diciamo che la nostra Beyoncé si sta preparando per il nuovo tour mondiale. I live prenderanno il via il prossimo 15 aprile al Belgrado, toccando poi in Italia il 18 maggio per unica data milanese, per unica data quindi a Milano. Assolutamente da non perdere. Direi, una grande star, pop star come lei, insomma. No, perché ti mette veramente tantissima carica, è un animale da palcoscenico. Come si suol dire proprio in gergo. Ecco, un animale da palcoscenico. Un animale da palcoscenico, bene. Grande Beyoncé. Brava. Ricordiamo il nostro appuntamento più tardi con il nostro Happy Cinema, Giuseppe. Sì, la nostra rubrica per tutti gli amanti del cinema, praticamente i film più visti durante il weekend. Avremo in collegamento la nostra inviata da Palermo, Caterina Terranova. Sì. E ci sono un po' delle sorprese, perché ci sono rimasti nelle posizioni più alte dei film che abbiamo conosciuto anche la scorsa settimana. Mm-hmm. Però ne vedremo altri, insomma. Ne parleremo naturalmente dopo. E all'interno. Poi le uscite, le curiosità, insomma, rimanete in nostra compagnia. Naturalmente, ovviamente. Noi continuiamo con la musica, sempre qui in diretta su CRM P Radio e su questa canzone dei Negramaro, Una storia semplice. Vado a salutare Lucia che ce l'ha richiesta, sempre qui al 3355637251. Ciao Lucia. Solo ieri era un gioco, dicevi riguardasse me. Allora come spieghi il fuoco che brucia casa e brucia te? Ho visto andare tutto in fiamme, la nostra storia è quel che c'è, tu li ferma sulle gambe, continui a chiedermi, continui a chiedermi perché questa non è una storia facile, e chi racconta di bugie spalmate sulle poche asciutte. Prova a smettere per poco, nel fumo tu non ridere. Trovo la faccia e sai che scopro che non è affatto semplice spiegarti che ho mandato in fiamme il nostro mondo e le tue bambole. Ma tu sorridi sulle gambe, continui a chiedermi perché questa non è una storia facile, che ti racconta di bugie spalmate sulle poche asciutte. Questa non è la nostra storia semplice, tra 100.000 parole si scrive senza lieto fine. Provo a resistere e tu non ridere, sapessi farlo ora io sarei tuo complice. Soffiando sulle fiamme non si può spegnere, quello che brucia intorno a noi non è salvabile. Lo avessi fatto prima, avremmo il tempo ancora di rimediare ad ogni sbaglio con un'altra storia, una spalmate sulle bocche asciutte. Questa non è la nostra storia semplice, tra centomila favole si scrive senza lieto fine. Su CRM di Radio, semplicemente insieme con Geraldina Turdo. Con Jerry

Ci sarebbe praticamente la conferma, o quasi ufficiale. Gli album degli U2, è destinato a succedere a No Lie on the Horizon, uscirà entro la fine del 2013. Che a bello. Dirlo, sì, finalmente ci faranno ascoltare questo nuovo album, e a dirlo è il bassista del gruppo Adam Clayton, secondo il quale a produrre ci sarebbe Danger Mouse, già collaboratore di Neil Barkley e Black Keys. Lecito quindi attendersi novità dal punto di vista stilistico. Ecco, il bassista della band si è lasciato andare con alcuni cronisti della testata irlandese Hot Press, e ci piacerebbe molto che il disco uscisse verso la fine dell'anno, ha detto Clayton. Abbiamo un mucchio di roba da parte che ci basterebbe per fare 3 o addirittura 4 dischi e farci sentire in pace con noi stessi, ma per fare il miglior disco possibile è indispensabile tenersi lontano dalle cose che riescono facili. Stiamo realmente cercando di addentrarci in territori a noi estremamente scomodi, se così si può dire. Quindi chissà cosa avranno in mente, Jerry. Quindi entro la fine del 2013 ci sarà questo nuovo album, appunto, degli U2. Quindi grande attesa per questo album. Dei mitici U2. Grande gruppo, grandi artisti, devo dire. Bene. Assolutamente sì. E noi continuiamo sempre con la bella musica. Arrivano loro, i Modà, i secondi, i terzi classificati al festival, alla 63esima edizione del Festival di Sanremo. E su questa canzone salutiamo la nostra carissima amica Paola, che in questo momento ci sta seguendo. Ciao Paola! Ciao! Avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare, frantumerei il mio cuore in polvere di sale per coprire ogni centimetro di mare. Se potessi mantenere più promesse in cambio avere la certezza che le rose fioriranno senza spine, cambierebbero le cose. Ti immagini se con un salto si potesse anche volare? Si potesse scomparire, e se anche i baci si potessero mangiare, ci sarebbe un po' più amore e meno fame, e non avremmo neanche il tempo di soffrire. E poi ti immagini se in mentre di fuori inizia il temporale. Se si potesse regalare un po' di fede a chi non crede più nel bene, e gli animali ci potessero parlare, cominceremmo a domandarci un po' più spesso se nel mondo sono loro le persone. Se potessi camminare verso il cielo ad occhi chiusi, consapevole che non si smette mai di respirare, cambierebbero le cose. Ti immagini se con un salto si potesse, si potesse anche volare? Se in un abbraccio si potesse scomparire? E se anche i baci si potessero mangiare, ci sarebbe un po' più amore e meno fame, e non avremmo neanche il tempo di soffrire. Poi ti immagini se invece si potesse non morire, e se le stelle si vedessero col sole, se si potesse nascere ogni mese per risentire la dolcezza di una madre e un padre, dormire al buio senza più paure. Alla 335-56-37251 e poi ancora ricordiamo il nostro numero fisso che è lo 0921-92-32-92 e poi ancora pure il nostro sito crmhappyradio.it. mandateci i vostri messaggi, c'è la finestrella inviare messaggio, è molto facile, fatelo, mi raccomando. Mi raccomando. Sai Giuseppe, ho trovato una bella notizia al solito mio, interessante. Questa... inizia a preoccuparmi. Ma no, ma quando mai? Sì. Guarda, adesso te la vado un po' a dire questa notizia. Che... di che cosa tratta? Tratta di... morti? Parla di donne, no, bare. Di donne, di piedi, di scarpe. Quindi è un argomento che è mio praticamente. Per tutti i nostri amici feticisti. Esatto. Diciamo che sarebbero sempre più donne, più le donne, specie americane, che sì, ricorrono a operazioni chirurgiche per poter indossare scarpe con tacchi a spillo. La cosa, da un certo punto di vista, deve stupire fino a un certo punto, però, dato che secondo l'associazione podiatrica americana, ben l'87% delle donne ha avuto problemi ai piedi a causa di scarpe scomode o che comunque non calzavano bene. Sempre però, sempre più donne, però, anziché cambiare scarpe e scegliene quindi di più comode, senti un po' che cosa fanno, scelgono di cambiare i propri piedi. Oddio. Alcune praticamente si fanno iniettare del collagene in punti strategici del piede in modo che faccia da cuscinetto, e altre invece chiedono di accorciare le dita dei piedi. No, questo è troppo, dai. Addirittura altre chiedono che una o più dita siano rimosse per calzare la scarpa più comoda. No. Ma tu ti immagini sta cosa? Non ci credo. Per dare un'idea delle richieste, il sì? solo studio del dottor Lucas a Memphis, nel Tennessee, sì? ha trattato circa 30 parenti al mese lo scorso anno. È un trend in crescita perché sempre più persone ne sentono parlare e quindi fanno domande e cercano di fare qualcosa. Ma il dottor Lucas, come altri colleghi, è restio ad applicare soluzioni estreme. Dice, vengono spesso donne a chiedere che venga loro rimosso il mignolo del piede. Vorrei dire. Cioè, ma Lucas raramente accetta, direi. Lui dice, non tolgo un dito, a meno che proprio non debba essere tolto. Cioè, ma stiamo scherzando? Ci vuole anche un po' di serietà, insomma. Cioè, ma come si fa questa cosa? Cioè, ad amputarsi e farsi amputare il dito per mettere la scarpa? Ma compra la scarpa più comoda, cioè con un punto in più di scarpa, cioè il numero in più. A mali estremi, estremi rimedi, la scarpa non calza bene, via un dito. Sì, come se fosse, non lo so, Ma hai visto che bella notizia che ti ho dato? Che bellissima. Ma sai, questa cosa dei piedi è nota anche nell'Oriente. Sì. Nell'antichità, appunto, sì. Le geishe portavano queste scarpe proprio strettissime. Per avere il piede piccolino, ecco, proprio. In maniera per che non piede, crescesse ecco, tanto. Ecco. Quindi è una cosa antichissima del piede, bello, piccolo, un po' come il tuo. Sì, ho un piedino piccolo, devo dire. Quanto porti? 32? Cosa sei? Che 32? Ma che stai a dire? Non è vero. Oh, piccolo. Vabbè. 36, dai. Ma fatti i fatti tuoi, no? Sto dando i numeri. Ecco, stai dando i numeri, direi. Ricordiamo il nostro intanto appuntamento più tardi, tra pochissimi, diciamo, con il nostro Happy Cinema, sempre con i film in uscita più visti, più belli, tutte le curiosità. I film più visti, i film in uscita proprio domani, 21 marzo. Ci saranno delle sorprese. E poi il nostro collegamento con la nostra con carissima Palermo. Caterina Terranova. Sì, la nostra briosissima collega, insomma, da Palermo, andata a vedere un film alquanto, insomma, femminile, per così dire. Mm-hmm. Mm-hmm. Con un interprete che ha, insomma, molto amato dalle donne. Sto dando degli indizi. Bravo, cioè. non dire tanto, perché dopo ne parleremo molto più approfonditamente. Ecco, allora sì. Diciamo e andiamo, anzi continuiamo noi con la bella musica e poi tra pochissimo avremo questo appuntamento con la nostra rubrica, appunto con il nostro Happy Cinema, Cinema Felice con Giuseppe, che ci darà tutte le informazioni, le curiosità e quanto altro. Sì. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you loved to dance. Ooh, all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. E se poi capissi che tutto uguale a prima e come prima mi sentissi inutile, andarvi ancora. E se mai cercassi te, sarebbe per paura, e la paura è sempre quella a vincere. E tu non puoi far finta che niente sia cambiato da te, ma senza di noi ho ancora quella strana voglia di sentirmi sola, senza di noi, ma non da ora, se non altro per vederti andarvi ancora, senza di noi ancora, quella smania di fuggire via da sola, di noi chi vola, sono solo aria e piume, nient'altro ancora. Certo che non apprezzo il tempo passato insieme a spasso, che questo mondo è un altro per trovare un universo adatto al nostro spazio, ogni giorno più stretto per contenere i sogni tutti dentro ad un cassetto. Ricordo e scappo, ho solo tanta voglia di sentirmi viva adesso. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Baby.

Siete sempre in diretta su CRM più Radio all'interno di Semplicemente Insieme, insieme a Jerry e insieme a Giuseppe. Siamo pronti per il nostro appuntamento di ogni mercoledì con il nostro Happy Cinema, vero Giuseppe? Sì, siamo prontissimi. Vogliamo lanciare la sigla, la nostra bellissima sigla, Jerry. Quindi non perdiamo tempo e lanciamo la nostra sigla. Vai. Eccoci tornati in studio, la nostra sigla che ci mette sempre tanta carica. Allora, a chi troviamo al primo posto secondo chi, te? Chi troviamo? A chi non troviamo? Lo so, non lo so. Sempre il Colossar della scorsa settimana, infatti seconda settimana di programmazione, il grande e potente Oz si aggiudica il primo posto dei film più visti durante il weekend. E come dicevamo anche la scorsa settimana, insomma, un film per tutta la famiglia, anche per questo va sempre ai primi posti e ha guadagnato qualcosino come 2.116.009 euro solamente in Italia. Ovviamente questi sono gli incassi solamente in Italia. Al secondo posto abbiamo una new entry, che è una commedia all'italiana con un protagonista che già la scorsa settimana ti era abbastanza, come dire, piaceva. Che cosa? Motivata per questa cosa? Sì, abbiamo... lo ricordo. Sì, lo ricordo io, cioè. Allora, lanciamo il trailer e poi parliamo. La seconda posizione dei film più visti di questo dell'ultimo weekend. Vediamo. Allora, andiamo a lanciare il trailer e poi ritorniamo naturalmente in studio con il nostro Happy Cinema. Sì. Ciao, sono Leila. Ci conosciamo? Sono tua figlia. Ammesso che abbia fatto sesso con tua madre, questo non vuol dire che sono tuo padre. Che non hai usato il preservativo e non sei stato attento. Oltre che veloce. Oh, guarda che è una cosa bella, eh. Facciamo il test del DNA. Noi casa non ce l'abbiamo. Non ho capito perché mi devo accollare pure il nonno. Io poi gli adolescenti non li reggo. Andrew, dico, per la scuola ci pensi tu? Chi è che si occupa di Leila al di fuori delle ore scolastiche? Rolling Stones o Neutrals? Neutrals. Sto cazzo. Oh! Ma che stai a fare? Buongiorno. Occupato. Entrano, escono, tipo campeggio, io già sto stitico. Ho parlato con quel giovanotto che si spaccia per tuo padre. Si sente tanto figo, però è un coglione. Come io vorrei restare questo dubbio tutta la vita? Ma chissà di che figlia quella, mai vista? Ah, dici che è sudo? È comodo però, mi ci muovo bene. Tu ti sei piazzato in mezzo alla strada, adesso non so più che fare. Io non so capace a far padre, aiutami te, cazzo, no! Ce l'hai? Un coso? Un coso che sai poter fare quella cosa. Ah, oh, un preservativo? Sì. Aspetta. Perché scappi? Sembra che ti dà fastidio se cerco di conoscerti. Io non scappo. Sono quello che vedi. Ed eccoci ritornati. Allora, seconda posizione dei film più visti del weekend, abbiamo lui. Buongiorno, papà. Buongiorno papà, buongiorno papà. Abbiamo ascoltato qualche parolaccia, qualche cosa. Buongiorno papà, e tra l'altro ieri, scusami Giuseppe, è stata il era giorno, San Giuseppe. Ecco, volevo arrivare anche a questo. Quindi volevo fare gli auguri a tutti i papà che, sì, che sono all'ascolto, a tutti i papà comunque del mondo, sì, soprattutto al mio papà, papà Giuseppe, che tra l'altro pure onomastico e quindi anche... Quindi onomastico perché io l'ho fatto a lui e lui l'ha fatto a me. E poi naturalmente li faccio anche a te perché ti chiami Giuseppe. Grazie. Te toccano, caro Giuseppe, grazie, l'onomastico. Grazie, grazie. Quindi auguri papà. Però adesso e pure a tutti di... Giuseppe, Giuseppina, Giusi e tanto altro. Ok, allora, vabbè, buongiorno papà. Insomma, il secondo posto dei film più visti durante il weekend, ha guadagnato 1.059.740 euro. E la regia di questa commedia assolutamente all'italiana è Edoardo Leo, che interpreta anche una parte nel film stesso. Però vediamo il cast: Raul Bova, Nicole Grimaudo, Marco Giallini, Edoardo Leo, appunto, Rosabella Laurenti Sellers. E vogliamo vedere, andiamo a scoprire un po' la trama di questo film. Certo, noi vogliamo sapere tutto, tutto, però non svelare tanto, sennò poi che... No, svegliamo a metà. A metà, lasciamo un Quindi, po' di suspense poi. Il bellissimo Raul Bova, che in questo film è ancora più bello perché lo hanno tinto i capelli, ma lui insomma, è sempre stirati. Bello, sempre. Sì, ma in questo film appunto lo hanno reso quasi metrosexual, così dicono. Andrea è un 38enne, bello e sicuro di sé, single, sciupa femmine superficiale, con una avviatissima carriera in un'importante agenzia che si occupa di product placement. Tu sai benissimo cos'è il product placement. Non ho capito, bene, ripeti. La pubblicità, Jerry, si occupa, sì, di vabbè, pubblicità. Dai, sto scherzando, mamma mia, non si può fare nulla con te, sei proprio un bacchettone. No, assolutamente. Nella sua vita, fatta di avventura di una sola notte, sembra andare tutto a gonfie vele, nessuna responsabilità, tutto lavoro e divertimento. Finché, cara Jerry, un giorno al suo ritorno a casa, dove vive con Paolo, che è appunto il regista del film, un curioso amico disoccupato, appunto Paolo, trova Laila. Bene. Chi è Laila? Chi è Laila? Dimmelo, ecco, te chi è Laila. La ragazzina, decisamente stravagante, ha 17 anni e dice di essere... La figlia. Sua figlia. Vedi? Appunto, quindi si presenta la figlia a casa, figurati. E non è sola, con lei c'è suo nonno Enzo, un improbabile ex rocchettaro e padre della sua prima fugace e dimenticata conquista. Quindi ti lascio immaginare cosa succede. Sarà ingarbugliata lì, mamma mia. Sì, sì. È la classica commedia all'italiana, il primo tempo divertente, il secondo zuccheroso, per arrivare ad un happy end mielo caramelloso, dicono. Mielo caramelloso, mi piace. Passando per una spolverata di conflitto generazionale che non guasta mai, con nonni bizzarri, ma fondamentalmente saggi, padri che crescono, scoprendo il valore e anche il piacere della responsabilità genitoriale, e i figli che placano ribellioni nascoste con un ritrovato affetto. Anche questo da andare assolutissimamente a vedere. Sì, però vediamo la critica cosa dice. Buono il cast, a cominciare da Raul Bova, che appare meno statico del solito. Perché a te piace Raul Bova, però la critica insomma ogni a me tanto... piace, è bello e bravo, bravo e bello, ecco. Punto. Quindi Raul Bova con qualche guizzo spiritoso in più, un discreto arricchimento espressivo, e poi Giallini, ormai una garanzia, che è il nonno rocchettaro, una garanzia e una serie di altri azzeccati caratteristi. Brava come sempre la nostra Nicole Grimaudo. brava, te la brava. Ricordi Nicole Grimaldi? Come, credo che lei abbia fatto qualcosa con non è la Rai, se non erro. Sì, è sì, uscita sì. da lì proprio. E poi sì, la sua sì, carriera sì. è andata sempre più evolvendosi, avanti. Insomma, è diventata anche una brava attrice. Adesso una bravissima attrice, assieme ricordiamo anche Ambra Angiolini. Insomma, anche Ambra. Insomma. Sono uscite da Non è la Rai, da quel programma, insomma, in voga sì. di quel momento, tantissime bravissime attrici. Edoardo Leo, che è appunto il regista, è anche interprete di Paolo, l'amico di Andrea Raul Bova, mm-hmm. qui nella doppia veste di attore e regista interpreta con un certo brio il tenero eterno perdente e dirige con delicatezza, mano sufficientemente sicura, un prodotto tipicamente made in Italy a cui bisogna riconoscere una comicità pulita e genuina. Bene. Quindi ci si diverte in questo film, c'è qualche parolaccia in più, qualche argomento, non mancano, mi sa. Argomento un po' così da adulti, però appunto la tipica commedia all'italiana. Beh. E insomma da vedere assolutamente al secondo posto dei film più visti della settimana. Ok, allora andiamo a vedere, a lasciare il podio, insomma, la terza posizione. Abbiamo un film già visto la scorsa settimana, Il lato positivo, mm-hmm. che è stato, diciamo, raccontatoci da Caterina da Palermo. Che tra poco avremo anche in diretta sì, telefonica. Sì, perché al quarto posto troviamo un film che lei è andata a vedere proprio ieri sera. Mm. Ed è un film con un interprete sì? che a te piace tantissimo. E dimmi, chi è? Ti ricordi Pretty Woman? Richard Gere. Ecco, la sua interpretazione, dicono, migliore, forse la più matura, la più, diciamo, bella. Ed è questo. Andiamo ad ascoltare il trailer. Che ti è successo? Ti sei ingarbugliato. Devo bere un altro goccetto. Già. Allora, andiamo ad ascoltare il trailer e poi naturalmente ritorniamo in studio. Ok. Un attento uomo d'affari, dedito alla famiglia, che ho la fortuna di poter chiamare mio mentore e mio padre. Il mondo gira tutto intorno a cinque lettere. S, O, L, D, I. Non devi vendere, la società può crescere ancora. Di quanto denaro abbiamo bisogno? Sarai l'uomo più ricco al cimitero. Sì. Un certo detective Breyer vuole vederla. Manca più della metà dei fondi. Il buco è di 400 milioni di dollari. Ma è ridicolo. Stai rischiando 1000 anni di carcere. Ti voglio. Più passa il tempo, più bugie si è costretti a dire. Volevi che i clienti facessero bancarotta? Hai mentito. Stavamo per fallire. Che sta succedendo? È mio padre, devo fidarmi di lui. Detective Breyer, è per suo marito. Fissi un appuntamento, la polizia vuole parlarmi. E io non voglio mentire per te. Il responsabile non se la caverà soltanto perché è apparso in TV. Che dovrei fare allora? La frode, sesso, potere e denaro sono il tuo miglior alibi. Da marzo al cinema. Ecco, quindi già al cinema è uscito la scorsa settimana, La frode al quarto posto dei film più visti durante il weekend, ha guadagnato 858.370 euro e ce ne parla, che è stata proprio a vederlo ieri sera, non so con quale compagnia. Vediamo, adesso ecco. Vediamo se è ancora in linea la nostra Caterina. Caterina, pronto? Ci sei, Caterina? Ciao a tutti, ciao. Eccola. Giuseppe, ciao Zeri. Ciao Caterina, benvenuta. Come stai? Grazie mille, è sempre un piacere, mi sto divertendo da matti. Ecco, ogni settimana. Bene, la scusa per andare al cinema. Bene, ecco, bene, ecco. brava. Ma già ci andavi di prima, insomma, no? Sei una sì, grande amante sì, del cinema. Sì, lo so, però adesso è ancora più divertente. Adesso ci va ancora meglio, ancora più voglia di andare a vedere i film e poi naturalmente raccontarci un po' tutto quanto. Sì, vado più spesso, vado più spesso, e molto volentieri per dobbiamo voi. Dobbiamo andare assieme, Caterina, io e te, dobbiamo sì, andare. Sì, senz'altro. Chissà cosa andrete a vedere, insomma. Fatti nostri. E infatti, Giuseppe, fatti nostri, poi ci mettiamo decideremo d'accordo noi. In privato. Esatto, ecco, Caterina. Ecco. Viva le donne. Esatto, viva. Ok. Allora, Caterina, perché hai scelto questo film, La frode? Come mai? Allora, intanto sono andata a vedere il film con mio fratello, ecco, visto che eravate tanti incuriositi. Ecco. Questa volta in compagnia di mio fratello ho scelto un thriller. Sì. Un thriller drammatico, insomma. C'è anche del dramma sotto. Sì, drammatico perché comunque da spunto a molte riflessioni, sì. Ma queste riflessioni scaturiscono soltanto dopo aver visto il film. Lì per lì si rimane perplessi, sì. Finisce il film, rimani un attimino a bocca aperta e il giorno dopo dici: cavoli, eppure il film che ho visto ieri è un bel film. Quindi è interessantissimo. Quindi questa fine all'improvviso, insomma. Sì, una fine all'improvviso, però tu non te l'aspetti, pensi che continui, in realtà continua nella mente dello spettatore, questo dal mio punto di vista. Ah, quindi raccontaci meglio questa situazione, la trama, insomma, vogliamo sapere un po' di cose. Sì, è intrigante. Allora, parlavamo prima di Raoul Bova e qui troviamo un affascinante Richard Gere. Sì, come dicevate prima. Un altrettanto affascinante Susan Sarandon, no? Anche, però diciamo che la storia ruota attorno al protagonista Robert Miller, appunto interpretato da Richard Gere, sì, che è un magnate della finanza, è un uomo di successo, potente, non gli mancano le donne. Sì, immagino. Però quando si opera a livelli così alti, quando si ha tutto questo potere, ahimè non manca la corruzione e si ritrova con degli scheletri nell'armadio. Sì. Degli scheletri piuttosto scomodi. All'inizio sembra tutto perfetto, lui è un nonno affezionato, un padre perfetto, un buon marito, ma in realtà è solo apparenza. Ho capito, ma cosa ne dici tu di questa diceria che è l'interpretazione migliore di Richard Gere? Tu cosa ne pensi? Allora, me l'avevi fatto notare proprio tu, Giuseppe. Mi avevi detto, sì, sai, dicono che è la migliore interpretazione. Sì. Io ho prestato molta attenzione. Noi siamo abituati a vedere Richard Gere magari in altri film, come hai citato tu prima, Pretty Woman, magari Ufficiale Gentiluomo, dove lui era ancora, insomma, anche giovane. Gigolo. Sì, giovane e virile. Però adesso ha la sua età, infatti nel film, diciamo, ha appena compiuto 60 anni, sì, e la sua recitazione mi ha molto colpito. Io ho prestato attenzione non tanto per come si esprime verbalmente, sì, ma come lui riesca a comunicare determinate sensazioni o a dare delle risposte semplicemente con un'espressione o con uno sguardo. Ecco, questo mi ha molto colpito, bravissimo. Quindi linguaggio non verbale, insomma. Esatto, mi è piaciuto. Perfetto. Molto. Quindi sarà per questo che, insomma, la sua migliore interpretazione, cosa ne dici? Sì, secondo me sì, perché siamo abituati, ecco, a vederlo così molto pensieroso nelle commedie, diciamo, romantiche. Invece questo film è comunque impegnativo ed è straordinario perché anche se lui, adesso mi permetto di dirlo, anche se lui umanamente è un pezzo di puntini, sì, ma lui conquista lo spettatore perché si dimostra comunque un uomo con carisma, astuto, abile, e quindi anche se commette la frode, la famosa frode del titolo, sì, lui comunque riesce a salvare le apparenze. Però salvare le apparenze significa pagarne un prezzo anche molto alto. E questo si scopre alla fine del film e ci si accorge anche durante. Non vogliamo sapere la fine. Non ci svelare. Perché ho visto Jerry con un viso, insomma, abbastanza interessato. Niente fine. No. Poi diciamo soltanto che c'è anche Letizia Casta. Bellissima, giovanissima amante di, insomma, del protagonista. Stefano Accorsi. L'amante del protagonista. Nella vita privata Letizia Castà sta con Stefano Accorsi. Esatto. Qui stiamo parlando del film, ragazzi. Non è aggiornato Giuseppe. Non metteteci dentro il gossip, per carità. Abbiamo subito pensato a Stefano perché comunque, esatto, anche come dici tu, Giuseppe, è un pezzo d'uomo. Merita. Sì, ma ti dicevo, sì. Letizia Castà è l'amante del protagonista principale. Esatto, insomma. Sì, che nel trailer si dice sesso, ma in realtà, sì, solitamente si dice sempre sesso, potere. Sì, quest'uomo alla fine è anche coinvolto, insomma, da questa storia con questa, diciamo, pittrice, che sì, però ha un ruolo marginale perché muore quasi subito, sì, ahimè, durante un incidente. A lui viene un colpo di sonno sì. E per causa sua lei muore. Ok, basta Caterina, non svelarci più nulla. Non dico più niente, no, non dico più niente. Le nostre amiche, amici a casa, insomma, vogliono andarlo a vedere, insomma, quindi non svegliamo. Sono un'ultima cosa, mi permetto soltanto di dire complimenti al regista, perché il suo primo lavoro ha soltanto 33 anni ed è un regista americano e si chiama Yareti Nicolas, è un figlio d'arte, quindi complimenti. Giovanissimo comunque. Cioè, avere diretto Richard Gere, non so. Non è da tutti. Esatto, esatto. Complimenti, chissà se avrà risvolti negli Oscar il prossimo anno questo film. E poi un'ultimissima cosa. Ecco, sì. Sì, dai, chiudiamo. Allora, a parte il ruolo della moglie, quindi interpretato da Susan Sarandon, che tu citavi prima, insomma, Letizia Cassa, eccetera, eccetera, ci sono secondo me due personaggi che invece sono molto importanti, perché mentre gli altri sono costretti a fingere, indossano tutti una maschera, ci sono degli altri personaggi che invece sono veri, tra cui Parker, che è il figlio di un ex autista del protagonista, la madre della Letizia, insomma, di Julie nel film, della famosa pittrice, l'amante, e poi forse qualche altro personaggio, anche la figlia secondo me. Ma quanto è brava la nostra Caterina, ma ragazzi. Come? Sì, bravissima. Sì, andate a vedere il film, interessante, però lo si scopre soltanto dopo averlo visto. Ah, ecco, l'indomani, come dice lei, insomma, vedrai e scoprirai qual è la fine. Ah, bene, bene, bene. Molto brava, no, Caterina. Non ci si annoia comunque, non ci si annoia. Non ci si male. C'è questa trama intrecciata e poi cioè, il regista è come se dicesse: ora tocca a voi indovinare come andrà avanti. Quindi libera, lasciamo decidere noi. Sì, una libera interpretazione di come andrà avanti. Diciamo, esatto. Ok, grazie mille Caterina, sempre preziosissimo il tuo intervento. Ciao Caterina, grazie, alla prossima settimana. Buon pomeriggio, buona continuazione. Ciao, grazie, un bacione, ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao ciao. E allora, questa era la quarta posizione dei film più visti della settimana. Alla quinta, perché noi arriviamo sempre alle prime cinque posizioni, abbiamo Educazione Siberiana, I criminali onesti di Gabriele Salvatores, che ha guadagnato altri 531.000 euro per il suo film. Anche qui, insomma, dicono il suo miglior film della sua maturità, eccetera. Quindi, queste sono le cinque posizioni di questa settimana. Ora bene, andiamo ad ascoltare un po' di musica. Sì, Jerry, naturalmente, poi ritorniamo nuovamente in studio insieme, sì, insieme con a il noi. Film in uscita proprio domani, 21 marzo, assieme alla primavera escono questi film. Andiamo ad ascoltare una bellissima. Arriva lui, il mio preferito. E su questa canzone saluto il mio carissimo amico Gaetano, che in questo momento ci sta ascoltando. Ciao Gaetano, un bacione. Ciao, grande. Ciao Gaetano. Se ti va, vieni a prendermi nell'hotel che costeggia il sole. E io confino a Norco Blu, l'ovest è una parte mia, ho una mano ad est e l'altra a sud. Se mi vuoi, vengo a nascere nella tua testa libera. Io non mendico attenzione, io sarei conquistatore, io vorrei che tu scegliessi me. Trionferà, trionferà la vita, insieme finire, spegnere per ripartire, non c'è strategia. al tuo onore che difendi ancora. Lacrima mi liberi, lacrima si libera e straripa dalle rughe mie. E se vuoi, sempre se lo vuoi, perché sai, non ti spingo a niente. E fai di me la tua virtù, fai di me qualcosa in più. Scegli me tra i tanti, scegli me. Tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è Semplicemente Insieme. Ed eccoci tornati in studio, eccoci qua all'interno sempre di Semplicemente Insieme della nostra rubrica appunto Happy Cinema. Allora concludiamo un po' la nostra rubrica. Allora abbiamo visto i film più visti dell'ultimo weekend, adesso vediamo le uscite, proprio domani 21 marzo alla primavera. Escono questi film. Allora, una commedia sempre italiana, Benvenuto Presidente. Già il titolo. Ecco, gli attori Claudio Bisio, Kasia Smutniak, Giuseppe Fiorello, Omero Antonutti, Remo Girone, Massimo Popolizio, Michele Ajac, Cesare Bocci, Franco Ravera, Gianni Cavina e Stefania Sandrelli. Che bel cast. È una vicenda abbastanza divertente, insomma, un tal Giuseppe Garibaldi, si chiama proprio così. Diciamo a causa di un litigio politico viene eletto all'improvviso Presidente della Repubblica, quindi immaginati Claudio Bisio Presidente della Repubblica, grande, che grande. Cosa combinerà? Immagino, ecco, già immagino, ecco, è un personaggio lui, quindi ecco. Allora, questa è la prima commedia italiana, ne abbiamo un'altra, diciamo, spagnola, sì. Regista un tal Almodóvar, se tu lo conosci. Sì, lo conosco. Sono e chi è, diciamo, la musa di Almodóvar? Aspetta, ti ricordi? No, adesso questa mi sfugge, mi sfugge. La devi sapere, Jenny. Non lo so, è di Blatter. Non ti farei suggerire. Volver. Non la so, è dilla te. Tutto su mia madre. Non me la ricordo. La bellissima Penelope Cruz. Non mi veniva, che devo fare? Devi andare a vedere il film. Ci andrò. Ecco, Gli amanti passeggeri, commedia spagnola, con Penelope Cruz abbiamo Javier Camara, un tal Antonio Banderas, Carlos Areces, Paz Vega, Raúl Arevalo, Blanca Suárez, Lola Dueñas. Insomma, tantissimi attori bravissimi per questa commedia alla Almodóvar, insomma, se tu hai visto i suoi film. Ci sarà da ridere, da andare a vedere. Già il trailer dice tutto, insomma. Poi abbiamo un film per i più piccoli, i Croods, animazione avventuroso, che sono questi diciamo cavernicoli. Ci sarà molto divertimento per i bambini, insomma, la Pixar con questo effetto straordinario per tutti i più piccoli, i Croods. E poi un film che a me piace tantissimo, di genere all horror thriller, La madre, il sottotitolo recita L'amore di una madre è per sempre, quindi chissà cosa succederà in questo horror, forse una tematica un po'... Non voglio vederlo. Ecco, una tematica che non combacia, insomma, con l'horror, però appunto La madre, vediamo cosa succederà. Horror thriller. Poi, nella prossimità della Santa Pasqua, che era Jenny. Sì, che ci siamo tra poco. Tra poco. Esce domani su Re regia di Giovanni Columbo, ed è La Passione di Cristo trasposta in Sardegna, quindi La Passione di Cristo girata interamente in Sardegna, non si vedrà mai la Palestina, anche questo abbastanza interessante, insomma, da vedere per tutti, diciamo, gli amanti del appassionati, genere. Gli appassionati del genere, diciamo, biblici, dei film grandi della Bibbia. Ok, quindi sì, i film in uscita domani 21 marzo. Ringrazio tutti gli ascoltatori che ci seguono anche su cefaloweb.com. Certo, come no. Nella, diciamo, la parte scritta di Epicinema. E quindi tante tante grazie per tutti gli amici cinefili. E ecco, noi ricordiamo l'appuntamento, rinnoviamo l'appuntamento a mercoledì prossimo all'interno di Semplicemente Insieme con Epicinema. Sì. Ecco. E noi continuiamo allora con un po' di musica, perché tra un po' dobbiamo salutarci, ahimè, ci siamo quasi. Quindi continuiamo con My Name is Tan Shaka Ponk. Wow. I'm staying, my name is Tan. Pomeriggio su CRM Happy Radio è Semplicemente Insieme. Non dovevo andare via. Ero convinta.